Il gastronauta di Davide Paolini. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ebbene, oggi, come già annunciato, parleremo di panettoni. Andremo così a verificare cosa sta succedendo sul mercato del panettone, perché sempre di più compaiono così sui negozi, nelle pasticcerie, panettoni strani rispetto al passato. Panettoni alla birra, all'aceto balsamico, fatti con olio invece con burro. Bene, cosa sta succedendo? L'innovazione sta prevalendo sulla tradizione? Il fumo strano così sta emergendo sul mondo dei panettoni? Questo è l'interrogativo di oggi che andremo a cercare di rispondere. Il numero verde 800 24 00 24 349 238 6666. Quindi chiedo anche ai radioascoltatori: siete d'accordo sull'innovazione o siete ancora per la tradizione nel panettone? Bene, cominciamo questo giro d'Italia, andiamo in Veneto, andiamo a Zanè, andiamo alla pasticceria Filippi. Buongiorno ad Andrea Filippi. Buongiorno Davide, buongiorno. Andrea, allora, lei sì. Da anni ormai sta facendo il panettone all'olio d'oliva sostituendo appunto il burro, e quindi un panettone, diciamo, riservato a chi in passato non poteva mangiarlo per un'allergia, per un'intolleranza al lattosio. Ma certo. Sta avendo successo questo tipo, questa nuova produzione? Ma io direi di sì, molto molto successo, soprattutto in questi ultimi 2 anni, perché la cosa è nata molto timidamente nel 2002. E siamo partiti facendo qualche centinaio di pezzi, insomma una cosa sì, comunque per noi che siamo una piccola pasticceria di un discreto rilievo, e invece devo dire che da 2 anni siamo riusciti, oltre che a venderlo abitualmente in Italia, siamo riusciti anche a esportarlo, perciò qualche piccolo cliente, qualche negozio di delicatessen ce l'ha in Inghilterra, ce l'ha anche in America da quest'anno. E ci fa piacere, insomma, ecco, ci fa molto piacere che questo prodotto, che è un po' particolare, insomma, si stia diffondendo, insomma, ecco, e venga apprezzato non solo in Italia, ma anche sì, da ecco, cosa cambia? Cambia nel sapore, cambia nella lavorazione, c'è qualcosa di particolare, diciamo, rispetto al burro, ovviamente. Allora, diciamo che per quanto riguarda la lavorazione è abbastanza simile. Chiaramente si è dovuto tarare diversamente la ricetta, essendo che l'olio evidentemente è lo stato liquido, diciamo, a temperatura ambiente, e non è come il burro invece che è solido, e comportava ovviamente degli scompensi all'interno dell'impasto non indifferenti. Tarando comunque diversamente la ricetta si è ottenuto comunque un impasto decisamente buono, cioè proprio a livello tecnologico, tipo. A livello di sapore invece il nostro impegno è sempre stato volto a ricercare un olio di altissima qualità, chiaramente, per caratteristiche anche organolettiche, e che comunque abbia un sapore e un profumo che non vada a scontrarsi con il resto degli ingredienti, e che non vada soprattutto a prevalere. Chiaramente sì, si può sentire questo profumo e questo retrogusto, diciamo, nel panettone, in maniera molto molto molto lieve, tanto che tante persone, insomma, tipo anche dei sommelier, l'avevo anche già detto, ho fatto assaggiare il prodotto senza dire niente e mi hanno detto che era un panettone normalissimo, perciò non si sente, non si capisce, insomma. Se invece si sa che c'è all'interno l'olio, sì, lo si va a ricercare, dicono sì, c'è un po' di olio, si sente, eccetera. Bene, io la ringrazio, ecco. Ringrazio Andrea Filippi della pasticceria Filippi. Il gastronauta. Buongiorno, buongiorno di nuovo. Panettoni strani, ma anche panettoni veramente tradizionali. Io così comincio già a avere parecchie SMS. Ce n'è uno che mi dice: per chi non mangia uova c'è una ricetta per fare il panettone? Bene, ora sentiremo con qualche esperto. Dicevo appunto che stanno così emergendo dei panettoni che io ho chiamato femolo strano, nel senso con la birra, l'ho già detto, con l'aceto balsamico e con tanti altre cose. Ho detto anche chi è favorevole, chi è contro. Numero verde 800 24 00 24. Abbiamo con noi il presidente onorario dell'Accademia dei Pasticceri, nonché fondatore di questa accademia, Iginio Massari. Buongiorno Massari. Buongiorno a voi. E lei, come così grande, mi permetta la battuta, è grande vecchio della pasticceria del panettone, cosa ne pensa di questi panettoni diversi che stanno apparendo continuamente sul mercato con le cose più strane? Ma io ritengo che la qualità per tutto quello che si fa è tale quando poi il prodotto viene ripetuto all'esperienza nella degustazione. Se è un'esperienza fine a se stessa non serve a niente. È vero che comunque anche tutti i panettoni infarciti, che ce ne sono un futio, occupano solo il 5% del mercato nazionale. Vuol dire che la gente alla fine mangia qualche cosa che ha creato un romanticismo particolare, che è il panettone tradizionale, mentre gli altri vengono a fare delle esperienze, magari non in continuità, ma qualcuno può sempre mettersi dentro il naso, insomma. Bene, Massari, rimanga con noi. Abbiamo con noi anche Alberto Bauli, che proprio recentemente ha così acquisito i marchi Alemagna e Motta, quindi due marchi storici da cui è nata la storia e la tradizione del panettone. Proprio a Bauli volevo chiedere, visto che appunto ha acquisito da poco, quindi credo che questo sia il primo Natale con questi due marchi, se anche lui, diciamo che i numeri sicuramente sono molto più importanti dei pasticceri che abbiamo sentito, se ritiene che il panettone cosiddetto diverso possa avere un futuro o se la tradizione rimanga ancora quella fondamentale per questo dolce che io ritengo un dolce nazionale. Buongiorno, guardi, io ascoltavo quello che dicevano prima i suoi interlocutori e devo ricordare che c'è una legge che stabilisce il DOP, cioè la denominazione di origine protetta del panettone, che prevede che siano impiegate soltanto uova fresche e burro vaccino. Quindi qui cominciamo ad andare in argomenti un po' più giuridici, ma io non voglio affrontarli. Le posso dire però che la ricerca di novità è una cosa normale ed è giusto che vi sia. Bisogna stare attenti a non finire nell'eccentricità, perché probabilmente questo capolavoro della pasticceria che è il panettone merita anche di essere apprezzato nella sua vera veste. Poi magari se uno non ha l'occasione di mangiarlo come Dio comanda, trova che il panettone non è buono. Invece in realtà il panettone è veramente un prodotto di cui l'Italia va fiera e che il mondo ha abbandonato, perché non è capace, non è mai riuscito a fare, perché non è capace di avere la lievitazione naturale, che è una caratteristica del nostro paese e che è una caratteristica che ha portato a dei livelli di eccellenza che oggi sono patrimonio del nostro paese, tant'è che è stata fatta una legge apposita. Bene, credo che abbiamo una radioascoltatrice in questo momento che vuole intervenire. Buongiorno. Buongiorno, signor Paolini. Mi dica. Sono Ivana, volevo segnalare una pasticceria ottima a Milano, Bolgè. Bene, grazie della segnalazione, speriamo che lei non sia la proprietaria, va bene, grazie, è una battuta la mia. Io voglio tornare un secondo a Bauli per questo, le volevo chiedere, io da anni sto lanciando questa idea del panettone anche d'estate, io spero che prima o poi anche l'industria produca tutto l'anno panettone. Ma guardi che l'attesa è sempre una cosa molto importante, il panettone nasce con una storia quasi religiosa, quasi cattolica, oserei dire, no? Dal pane si crea il panettone. Pensare di destagionalizzare il panettone è un'impresa più che ardua, credo di poter dire anche abbastanza sbagliata. Si può avere un panettone nelle pasticcerie, certamente, ma il classico consumo del panettone è quello che si fa durante le feste, perché è un momento, come dire, di unione, è un momento nel quale vi è una sacralità che il panettone in qualche misura riesce anche a conservare, quindi noi non siamo molto favorevoli a una destagionalizzazione. Pensiamo invece che la tecnologia del panettone, perché il panettone piace perché è una cosa molto buona, questa tecnologia possa dare e debba dare dei prodotti che possono avere delle caratteristiche similari e possono essere consumati anche fuori del periodo canonico. Questo sì. Ma un bel panettone in agosto col gelato è una grandissima cosa. Comunque la ringrazio. Prego. Prego. No. Volevo solo aggiungere una cosa, dottor Paolini. Cioè, purtroppo il nostro prodotto, il prodotto che viene fatto dalle industrie, è un prodotto che viene ad essere svilito da prezzi troppo bassi e questo può far incorrere nell'inconveniente di credere che vi sia una minore qualità. Vorrei dire solo una cosa, l'industria che produce panettone è un'industria per modo di dire, in realtà è un sistema artigianale grande, molto grande, ma certamente automatizzato in modo da poter garantire tutto quello che garantisce l'artigiano, ma con in più delle garanzie che l'artigiano non è in grado di dare, perché parliamo ad esempio, noi abbiamo uova che hanno non più di 7 giorni, se no non le possiamo ritirare. Le quantità di burro, le dicevo, ma soprattutto le analisi, la cura nel prodotto che possiamo fare noi come industria, è un qualche cosa che credo non è conosciuto ed è un vero peccato, perché è uno dei vanti della nostra industria. Bene, grazie. Sentiamo Gino Massari cosa ne pensa in proposito. Ma lo sai, il panettone è come una macchina, tutte e due hanno le ruote, hanno un motore, e il panettone ha la farina, in questo caso come energia, e tutti vanno con la benzina, è tutto il contorno che conta. E se il contorno non è qualcosa di straordinario, e poi la battaglia dell'industria è uomo-macchina, la battaglia dell'artigiano è uomo-tempo. E nel tempo ci sono tutte quelle chicche che l'industria, al di là di tutta la sua buona volontà e di tutti i suoi programmi, ma certi prodotti non sono prodotti in quantità necessarie per far sì che l'industria vada avanti. Perciò noi abbiamo la possibilità di avere queste chicche che gli industriali hanno la possibilità, ma chi le producono ne fanno pochi. Perciò c'è un burro che è stagionato, la panna fermentata, che la produzione è limitata, che i canditi sono fatti in un determinato sistema, e non voglio entrare in merito di questo perché io sono un promotore e ammiro tutto quello che è industriale, soprattutto quando è ben fatto, dove ci sono dei limiti da tutte e due le parti. Il limite più oggettivo è l'immediatezza nell'artigianalità, ciò che non c'è nell'industria. Bene, io la ringrazio. Grazie a Eugenio Massari della pasticceria Veneto di Brescia. Sentiamo Antonio da Pordenone. Buongiorno Antonio. Buongiorno dottor Paolini. Io volevo dare una nota, purtroppo non di gioia in questa festa, le spiego. Ho una bambina celiaca, per cui potrei immaginare come l'approssimarsi delle feste natalizie e i numerosi spot televisivi che ricordano panettoni. Lei vuole sapere se esistono panettoni per celiaci. Bravissimo. Bene. E ne esistono, ma purtroppo non hanno la sufficienza, non sono soffici, la morbidezza tipici invece del panettone tradizionale. Volevo chiedere se questo è un problema tecnico, un problema di pochi numeri, o perché non ho ancora trovato quello effettivamente. Guardi, lanciamo un appello a chi conosce panettoni per celiaci, poi lo chiederemo a qualche nostro pasticcere che faremo intervenire. Sentiamo Francesco da Firenze. Buongiorno Francesco. Buongiorno a voi. Io ho trovato delle ricette per fare il panettone artigianale in casa meravigliose. Sono due ricette diverse su un sito internet, che è stata una bella scoperta su come nasce e cresce e poi si può mangiare questo panettone. Se posso do l'indirizzo del sito internet. Bene, dia, no, veloce. www.lacucinadimarte.it. Bene, grazie Francesco da Firenze. Il gastronauta. Buongiorno di nuovo agli amanti del panettone. Quindi panettone tradizionale o famolo strano? Questo è il grande interrogativo che abbiamo lanciato. Ricordo il numero verde 800 24 00 24. Ho ricevuto molti sms che mi chiedono panettoni per celiaci, panettoni senza uova, panettone come si fa a fare a casa, ma è stato dato un sito prima. Mi richiedono indirizzi, però io indirizzi ovviamente non le posso ridare in trasmissione. E allora abbiamo detto famolo strano e ho detto che quest'anno c'è la presenza di panettoni alla birra, molto consistente sul mercato, ovviamente di piccole produzioni, non sono produzioni dell'industria. Ma abbiamo con noi Osiride Chiaradia, che è dell'azienda Zago, che è stata la prima a entrare sul mercato con il panettone alla birra già l'anno scorso. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno signor Paolini, buongiorno agli ascoltatori di Radio 24. Com'è nata questa idea del panettone alla birra? È nata 2 anni fa dal nostro amore per il lievito vivo, quindi visto che le nostre birre poi lavorano su base lievito, volevamo creare, diciamo lasciando comunque l'aspetto tradizionale, qualcosa che ai cuvée potesse trasferire. Per cui abbiamo iniziato a massaggiare il lievito madre con la birra ai cuvée, e abbiamo notato che la birra rilasciava molta morbidezza al prodotto. Ovviamente è un panettone che non sa di birra, perché poi la birra entrando in forno evapora e quindi non viene trasferito il gusto, ma si rilascia molto appunto nella morbidezza. Ma voi consigliate poi di diciamo abbinarlo con la birra e non col vino o con altre cose? Beh, giusto giustamente noi lo consigliamo abbinato alla nostra birra ai cuvée, e non a caso abbiamo deciso di farlo senza canditi, proprio perché altrimenti l'abbinamento, quindi il sapore della buccia d'arancia, sarebbe andato in contrasto con quello che invece poi il profumo della birra, dove emergono più i toni di liquirizia. Si può comunque anche degustare con dei vini passiti tranquillamente, oppure anche appunto con dei vini liquori. Bene, grazie a Osiride Chiaradia della Zago. Ma sentiamo un radioascoltatore, Mauro da Torino. Buongiorno Mauro. Sì, buongiorno. Senta, a me mi incuriosiva una cosa. Siccome vediamo circolare questi prodotti nella grande distribuzione a partire dai primi di ottobre e addirittura qualche volta anche gli ultimi di settembre, io mi domando, ma i prodotti che ci sono dentro per mantenerli freschi e anche buoni, devo dire, non è che magari sono un po', potrebbero essere tossici, pericolosi, insomma? Ecco. Tossici e pericolosi non so, ma sicuramente alla scadenza, dopo 20-25 giorni, il panettone non è più come prima, ma ora lo chiederemo sicuramente a un grande, uno che ritengo dei più grandi pasticceri italiani, a Teresio Busnelli della pasticceria Pinuccia di Arluno. Buongiorno Teresio! Buongiorno Teresio! Buongiorno dottore! Allora, quanto si può mantenere un panettone artigianale? Dura circa un mese. Un mese. Cos'è che, diciamo, la lunga durata può far soffrire il panettone? Sono i canditi, sono le uvette oppure è proprio l'impasto? Dice la lunga durata. Sì, sì, cioè dopo 20 giorni lei dice il panettone non è più fresco come prima, non è più gradevole no, come io prima. No, per un mese è ancora fresco, sì. Sì, ma sono anche gli ingredienti, Ecco, ingredienti appunto. E i canditi. Sono i canditi, quindi. Canditi e l'uvetta. Quest'anno ho preso un'uvetta di moscato, biologica, rimane ancora più morbido, si gonfia, come entra si gonfia. Senta Busnelli, lei cosa ne pensa di questi panettoni che sono non più tradizionali, che sono sul mercato, alla birra, all'aceto balsamico, all'olio, cosa ne pensa di questo? Ma già 50 anni fa Motta Alemagna già ha fatto delle prove, però sono delle aggiunte, però per esempio l'aceto va a perdersi, va tutto a perdersi. Quindi lei dice non dura molto. È come non metterlo. Ho capito, e della birra cosa ne pensa? È uguale. Lei dice che va a perdersi. Sì, tutto, col calore tutti gli alcolici o semi-alcolici vanno a perdersi. Ecco, rimanga con noi, sentiamo Nazareno dalla provincia di Latina. Buongiorno Nazareno. Buongiorno a lei. Mi dica. Allora, volevo, a parte i complimenti, d'accordo, per la... Lasciamoli perdere questi, mi dica. Sì, senta, sono un po' d'anni che produciamo panettoni qui a Cori, in provincia di Latina. Sì. In via della stazione e appunto nell'ultimo periodo sono venuti fuori i miei colleghi che fanno panettoni con i preparati naturalmente a discapito della qualità e questa cosa ci tenevo che i consumatori la sapessero, ecco. Senta, non, ma mi dica una cosa, solo dei miei qui in zona, no, no, d'accordo, ma mi dica una cosa, come deve fare un consumatore a scoprirlo? Leggendo l'etichetta, assaggiandolo? No, assaggiandolo magari nemmeno ci riesce, perché se un bravo fornaio con i preparati magari fa anche un prodotto standard e quindi non è facile, ecco, deve fidarsi di chi lo fa. Ecco, questo è il punto, fidarsi sì. Bene, ma mi verrebbe una battuta, ma non fidarsi è meglio, no? Il problema è questo, quindi lei dice si va sulla fiducia. Bene, anche questo sicuramente è un metodo di mercato. Bene, abbiamo con noi anche un altro produttore, un grandissimo produttore di birra, che è Teo Musso Baladin, il quale quest'anno anche lui è entrato sul mercato con un panettone alla birra, con una birra molto particolare. Buongiorno Teo. Ciao Davide, ciao a tutti. Tu hai usato una birra tua molto particolare, che è una birra diciamo che di solito viene usata anche sul dessert, quindi mi sembra che, diciamo, la combinazione sia giusta. Ma sì, non solo, cioè in realtà io, al contrario di quello che è stato detto fino adesso, dopo 2 anni di sperimentazione fatta con Massimo Albertengo, siamo arrivati a un risultato dove la nota di birra si sente, si percepisce molto bene e con dei risultati veramente incredibili. E questa birra è stata un binomio veramente entusiasmante ed è stata l'ultima che pensavo di utilizzare. No? Cioè l'ultima in che senso? Che avevi utilizzato altre birre prima? Prima abbiamo testato parecchie delle nostre birre, no? Perché pensavo che fosse più adatta a una birra, diciamo, tra virgolette, tradizionale, no? Mentre alla fine l'equilibrio è stato veramente interessante, sia nel mettere in infusione l'uvetta dentro questa birra, che utilizzando 25 grammi di questa birra all'interno dell'impasto, no? Per ogni panettone. E guarda, devo confessare, veramente un panettone tradizionale piemontese con la glassa fatta con la nocciola IGP e le mandorle di altissima qualità, tutto fermentato e lievitato con una pasta madre, però con l'apporto di questa leggera nota che alla fine chiude il panettone con una leggera nota amara, che rende proprio, diciamo, stuzzicante, e uno non smetterebbe veramente più di mangiarlo, è proprio una cosa incredibile. Bene, rimani con noi, sentiamo Luis da Roma. Buongiorno Luis. Pronto? Luis da Roma? Pronto. Pronto, prego. Sì, salve, io sono da Falconara Marittima. No, allora mi hanno passato un'altra cosa, comunque parli pure. Allora, abbiamo una pasticceria Orologio a Falconara Marittima e produciamo panettoni da tanti anni. Quest'anno abbiamo iniziato a produrre un altro tipo di panettoni che forse nella grande distribuzione già c'è, invece da noi ancora non c'era, con amarene con frutti di bosco, ovviamente prodotti di prima qualità, e stanno avendo un discreto successo nella nostra clientela. Quindi con la frutta, insomma. Bene, sì, io devo ricordare che ci sono anche altri panettoni, ad esempio quest'anno la dolceria Lucchi di Lucchi, lo diciamo in inglese, il Madignano, provincia di Cremona, produce un panettone al marron glacé. Quindi altri mi segnalano, molti radioascoltatori, al pistacchio di Bronte. Quindi diciamo che ormai mi sembra che questa modalità di famolo strano, insomma, veramente è sempre più presente. Ma sentiamo l'altro radioascoltatore, mi sembra è caduta, niente, continuiamo. Volevo chiedere a Busnelli, senta, arrivano moltissimi sms che mi chiedono il panettone per celiaci, ma è possibile fare un panettone per celiaci? No, è difficile, perché col panettone ci vuole un'ora di impasto, ha bisogno di tanto glutine. Ho capito. Il celiaci non vuole glutine. Quindi è impossibile, insomma, lei dice. È difficile a farlo, sì, si può farlo, ma sarà sempre un panettone un po' duro. Quindi ha ragione il nostro radioascoltatore che ha fatto questo intervento per la sua bambina. Però, cioè, una specie di panettone, diciamo, si può trovare. Bene, grazie a Busnelli, io dovrei leggere molti sms, ma non leggo uno in particolare perché è molto divertente. Un radioascoltatore mi ricorda che io un paio di anni fa ho detto che amavo molto il panettone mangiato con la mortadella, e qualcuno magari in questo momento ci sarà qualche svenimento sulle sedie di chi sta ascoltando in macchina. Sì, è proprio così, lo amo molto e mi fa notare, dice, visto che ora c'hai il panettone, esiste il panettone con la birra, sicuramente otterrai così l'accostamento migliore. No, io lo faccio col panettone tradizionale, perché, lo ripeto, sono un tradizionalista, sono un talebano del panettone proprio tradizionale al 100%. Sentiamo Luis da Roma, che mi sembra sia stato ripescato. Buongiorno Luis. Buongiorno a voi. Allora, io sono un pasticcere esclusivamente senza glutine a Roma. Perfetto. Abbiamo una pasticceria di prodotti freschi, torte, pane, pizza, molti biscotti. In questo momento sono in piazza Farnese con Slow Food, quindi non vi sto sentendo la radio. Mi hanno detto che vi hanno fatto delle domande sul panettone senza glutine, sì, artigianale, che io non faccio, e posso spiegare il perché, se lo volete. E il panettone normalmente si fa con farine forti, cioè con farine ad alto contenuto di glutine, addirittura industrialmente si fa con farine rinforzate. Le farine che industrialmente si vendono per i panettoni arrivano fino al 13-14% di glutine. Pensiamo che un frumento molto glutinoso come il Manitoba ha 7,5-7,60% di glutine sul peso della farina. Quindi è necessario il glutine, la maglia glutinica, per dare quel tipo di alveolatura che è così caratterizzante del panettone, e che è un insieme di sensazioni sensoriali che il panettone deve avere. Se facciamo un panettone senza glutine, l'industriale, si ottiene un'alveolatura molto piccola, e quindi è un prodotto molto diverso da quello che chi mangia il glutinoso è abituato a sentire. Bene, grazie, grazie della spiegazione molto, molto precisa e molto puntuale. Spero che così a molti che stanno cercando il panettone per celiaci sia servita. C'è chi dice che lo chiede anche senza uovo, poi chiederemo anche se è possibile senza uovo, ma mi sembra abbastanza difficile. Bene, abbiamo parlato di famolo strano e abbiamo parlato di olio, ma parliamo anche di aceto balsamico. Buongiorno Roberta Pelloni, titolare della vecchia dispensa. Voi producete un panettone all'aceto balsamico, vero? Sì, beh, a Modena non poteva che essere con l'aceto balsamico. Noi facciamo un panettone dove viene l'uvetta viene imbevuta il giorno prima in un certo tipo di aceto balsamico e poi nell'impasto viene messo un ulteriore tipo di aceto balsamico più invecchiato che poi perde l'acidità andando in cottura. Questo panettone risulta chiaramente un po' più scuro nell'impasto, però poi al palato molto gradevole. Senta, ma con che cosa si può abbinare un panettone all'aceto balsamico? Visto che l'aceto balsamico noi lo abbiniamo sicuramente con un lambrusco amabile della nostra terra, per cui un lambrusco graspa rossa di Castelvetro amabile, che si sposa perfettamente con questo tipo di dolce, oppure anche con un bianco frizzante, cioè una malvasia, insomma. Bene, tipo di... grazie, la ringrazio. Grazie a Roberta Pelloni. Voglio tornare, ho un minuto solo, con Teo Musso. Teo, abbiamo parlato appunto di panettoni alla birra, ma secondo te un panettone tradizionale si può abbinare alla birra, visto che tu sei così sicuramente un grandissimo degustatore e conosci molto bene gli abbinamenti? Beh, sicuramente. Su due aspetti diversi, cioè direi con due tipologie di approccio diverso, con una birra estremamente secca, direi una American Pale Ale come stile, una birra che ha un amaro importante, però note agrumate molto forti, tipiche di questi lupoli americani, no? Vedrei un abbinamento di questo genere, oppure con una birra proprio tipica, cioè, diciamo d'abbazia, come la Noël che noi interpretiamo per il periodo natalizio, che è una birra che pur avendo una nota tostata abbastanza importante ha queste note dolciastre molto natalizie, no? Quindi va benissimo appunto in questo periodo, insomma, questa birra. Poi, visto che diciamo è trappista, di origine trappista, secondo me si sposa benissimo con il Natale. Bene, grazie. Il gastronauta. Buongiorno di nuovo cari radioascoltatori, stiamo parlando di panettone tradizionale o di innovazione. Ebbene, sicuramente ci sono molti SMS che mi dicono: beh, il Pandoro, magari parleremo prossimamente anche del Pandoro. Oggi abbiamo voluto parlare del panettone perché ci sono molte così deviazioni, chiamiamolo così, molto famolo strano sul panettone. Sul Pandoro ancora non mi risulta, però se ci sono magari chiamateci, faccelo sapere, 800 24 00 24, perché potremo parlare anche di questo, e sicuramente un argomento che, come si dice, cade a fagiolo. Bene, abbiamo con noi un altro importante pasticcere, Achille Zoia, titolare della boutique del dolce di Concorezzo. Buongiorno Zoia. Buongiorno dottor Paolini. Lei cosa ne pensa? Tradizione o innovazione? Beh, tutte e due. Tutte e due, perché la gente aspetta delle innovazioni, però noi siamo legati alla tradizione e chiaramente cerchiamo di correre la tradizione, anche se io mi arrogo un po' il merito o il demerito di aver iniziato a cambiare a famolo strano, perché già da 30 anni c'è il panettone paradiso che era già fatto col cioccolato e le noci, a parte il panettone tradizionale, e chiaramente poi ho fatto il panettone alla bicocca, panettone a marron glacé, e poi dopo sono nati tutti gli altri. Quindi lei fa l'uno e l'altro, ma i suoi appassionati, diciamo, le preferenze vanno al paradiso? Certo, sì. Ecco. Su 45 quintali di panettoni, 5 sono il tradizionale, 40 sono il paradiso. All'interno ci sono 3 quintali di Pandoro. Quindi rimanga con noi. Sentiamo, abbiamo molti radioascoltatori. Lucio da Roma, buongiorno Lucio. Sento piano. Buongiorno Lucio, parli lei. Buongiorno, volevo presentare una pasticceria a Cinecittà a Roma. Bene, ci fanno dei film lì a Cinecittà o si fa anche del panettone? C'è stata una pasticceria che fa panettoni al marron glacé, ai frutti di bosco, una pasticceria innovativa. Ah, bene, abbiamo anche noi prima parlato di una pasticceria in provincia di Cremona, sempre con i marron glacé, visto i marron glacé hanno successo. Come si chiama questa pasticceria, visto che la lei chiama? La pasticceria Max di... Bene, lei, Valerio, lei non è il proprietario, no? No, magari. Va bene, grazie Lucio da Roma. Sentiamo Antonia dalla provincia di Milano. Buongiorno, sì, Antonia. Buongiorno, volevo segnalarle una pasticceria Garbagnate con un panettone buonissimo. Mi dica chi è? È pasticceria Borella, il figlio che ha rilevato la pasticceria del papà, è uno chef, ma quest'anno batte tutti i panettoni. Ma lei non è la mamma, no? No! No, benissimo. Lei, ma lei... è proprio buono, altro che grande distribuzione. Ne ho presi due stamattina, 2,49 euro. Che cosa mi danno? Neanche il pane. Come 2,49 euro in una pasticceria artigianale? No, ah, la l'esse lunga. Ah, ecco, pensavo e poi il mal di stomaco per tutti i conservanti che mettono dentro. Nessuno ne parla. Ma come ne parla? Se ne parla sempre di conservanti. Come no, anche prima un radioascoltatore ha chiesto se quanto può durare un panettone. È evidente che un panettone con i conservanti può durare molto più di un panettone normale dove non vengono usati i conservanti. Bisogna leggere l'etichetta, prendere l'etichetta e poi il consumatore sceglie ovviamente anche in base al prezzo, perché ci sono dei prezzi sicuramente molto alti rispetto a dei prezzi così sicuramente più a buon mercato, però basta leggere, e credo che ormai i conservanti per legge bisogna ben scriverli e ben descriverli, quindi anche se sono scritti in piccolo, bene, ci si mette gli occhiali e si legge. Grazie Antonio. Abbiamo con noi Nicola Boscoletto, presidente della cooperativa Giotto. Gestisce i carcerati della pasticceria di Padova. Tutti sanno che è uno dei miei punti fissi la pasticceria del carcere di Padova. Ebbene, anche loro mi hanno sorpreso, perché quest'anno sono usciti con una birra con un panettone alla birra. Cos'è successo, Nicola? Intanto, carissimo Davide, ciao e grazie per la tua sempre pronta attenzione e accoglienza. È successo un incontro di due passioni, un anno di lavoro, una passione conosciuta nostra della pasticceria del carcere di Padova, con la passione per la birra dei fratelli Vecchiato dell'Intenbraun, che avendo saputo di questo panettone buono hanno detto: ma perché non proviamo a mettere insieme le due cose? Un anno di studio e di lavoro ha prodotto questo panettone nuovo alla birra, accompagnato con una salsina sempre alla birra, e chiaramente bevendo in conclusione una birra. E quindi, tra l'altro, lanciamo quest'anno un brindisi anche a Natale, a Capodanno, non con le bollicine ma con una birra. Bene, io so che questa birra è un birrificio romagnolo che io conosco bene, che si chiama Amarcord, che fa una birra che si chiama, voi usate la tabacchera, ma ci sono tutti i nomi in dialetto molto divertenti. C'è anche la Miputena, lasciatemelo dire, perché è una della birra che si trova in circolazione di questa azienda. Bene, rimani con noi ancora un secondo, Nicola, anche se so che sei a un matrimonio. Ritorno da Achille Zoia. Zoia, abbiamo sentito parlare di conservanti. Sì. Ecco, vengono usati molto i conservanti nel panettone? Beh, noi no, assolutamente. Volevo specificare chiaramente che i conservanti non sono una cosa che elevano la qualità, sono necessari, non credo che siano dannosi, però chiaramente incidono sulla qualità. Poi teniamo presente un'altra cosa molto importante, che se ne parla poco: se abbiamo un prosciutto, un salame, un culatello dove il microclima è importante, figuriamoci nella preparazione della madre, dove a parte la farina e l'acqua, la cosa più importante poi è il microclima nel quale viene prodotto. Siccome il lievito naturale è un prodotto unico e irripetibile ogni volta che si rinfresca, chiaramente se io do più caldo o più freddo incido sul sapore del lievito, che è il sapore principale del panettone. Ecco, beh, ha parlato di lievito, di lievitazione. È importante la lunghezza della lievitazione per un ottimo panettone? Beh, chiaramente è importante la lunghezza della lievitazione in proporzione all'acidità che si vuole ottenere. Non bisogna superare, perché chiaramente l'acidità fa bene al panettone perché taglia il crudine e lo rende morbido, però chiaramente è troppo acida, poi dopo è indigeribile. Allora lì l'artigiano non è monotono nel produrre il panettone, a differenza di un'industria che per la loro qualità e la loro necessità devono andare a ruota sempre con gli stessi tempi. Noi siamo più interventisti, noi un lievito lo possiamo dare con un profumo più accentuato, meno accentuato, non con l'acidità, ma proprio con un profumo diverso a ognuno di noi. Senta Zoia, un panettone artigianale, quante ore ci vogliono per, diciamo, dal momento in cui si inizia l'impasto fino alla fine, fino alla cottura nel forno? Se lasciamo perdere la creazione del lievito, che ci vuole 20-25 certo, giorni. Certo. Una volta ottenuto il nostro lievito madre, chiaramente ci vogliono 3 giorni dall'inizio alla fine. Bene, poi ci sono dei lieviti madre molto molto molto antichi, si parla di alcuni di 80, 90, no, cioè 100 anni. No, il lievito ogni volta che si rinfresca è nuovo. Bene. Uno può avere la madre da tanti anni, ma non è più quella, chiaramente. Quindi la deve rinnovare ogni giorno, insomma, è così. Ogni giorno. Grazie ad Achille Zoia. Nicola Boscoletto, allora un'ultimissima cosa. Quanto ci vuole ai carcerati a produrre un panettone? Quante ore? Esattamente 3 giorni, cioè 72 ore, da quando incominci la lavorazione, la prima lievitazione, la seconda lievitazione, gli aggiustamenti, la cottura, il riposo, e va a finire dentro il sacchettino alimentare, sono 72 ore. Bene, io ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, anche i radioascoltatori che hanno chiesto moltissime SMS, molti non riesco a rispondere perché sono veramente tanti. E ora diamo la linea a Stefano Gallarini con Il riposo del guerriero.